La Divina Commedia di Dante Alighieri, libro primo, capitolo 6, canti 26, 27, 28, 29 e 30. Buonasera a tutti da Opencast Alpha. Siamo qui, siamo noi, siamo oggi, siamo ieri, siamo domani, ma siamo soprattutto. No, questa è una domanda a cui non so se possiamo dare una risposta valida. Chi siamo? Dove siamo? L'ho preparata tutta la settimana in bagno. Si è sentito, infatti era una sentito. Allora, niente, vai avanti. Opencast Alpha, puntata numero 1, 2, 25, 25, che è numero primo. Mucca. Abbiamo deciso che è il nostro primo numero primo. Ah, no, io pensavo come lui, 25 mucca. 25 mucca. Mucca. Mucca. 25 per la mucca. Vabbè, comunque. Comunque. Comunque. Siamo qui. Sono passate... Quanti giorni? Saranno passati... Un paio di settimane. Diciamo, no? Così, due settimane. Ma è una stima, eh? Una stima. Una potremmo... stima per eccesso. Sì, esatto. Siamo sempre più pronti alla prova costume per quest'estate. Io. Siamo veramente in forma. In forma smagliata. Sono andato in vacanza apposta per prendere dei chili in da più. Portare. Esatto. La prova costume. Dipende che forma. Dal mare, portarli a casa, capisco. Per prendere dei chili. Esatto. Una cosa dobbiamo fare stasera, eh? Salutare... Dopo. Ma i saluti a dopo. Saluti alla fine. Sei sicuro? Alla fine. Salutiamo dopo? Alla fine. Saluto Clara. No! Il cane. Vi state chiedendo dove è finita? Il GL cane. No, veramente no. Non Russa me ne... dog. Non me ne potrebbe fregare niente. Come non te ne può fregare niente? Di meno. Ma scusa, io sento, la sento alleggiare. Non sono stato io. Russava. Oh cacchio. Vabbè. Cosa facciamo stasera? Stasera facciamo... Cosa facciamo? Ma facciamo quello che facciamo di solito. Tipo? Stronzate. Pensavo di salvare il mondo io. Anche. Può essere un'idea. Salveremo quello che facciamo tutte le sere. Da distribuzioni brutte. Brutte. Ok, allora. La carpa di Rago durante la stagione degli amori si No, aspetta, quella era un'altra... ho sbagliato trasmissione. Scusate. Faremo un elenco di distribuzioni brutte. Brutte. Da evitare. Brutte. Ne so una. Vai. Ubuntu con Unity. Ubuntu. Allora. Ubuntu. Perché il 98% delle persone la chiamano Ubuntu, quindi... Ubuntu. Sì. Uno più Bunti. Esatto. No, Ubuntu con Unity è imguardabile. Al primo posto abbiamo deciso. È Ubuntu. Ubuntu con Unity. Mi spiace veramente. Se tu prendi un qualsiasi blog di qualche anno fa... Era solo Ubuntu. Ubuntu forever. Adesso come adesso? No. Però sai come sono certe scelte che alcuni possono piacere, altri no. A noi no. Ma ti dirò. Andiamo pure avanti con l'elenco delle... Mandriva. Però adesso si è reincarnata Mandriva. Attenzione. In Mageia. Cacchio di nome. Mageia. Però è un po' che non la provo. Più o meno da quando c'era ancora Mandriva. È uscita la 2.0 da... Vabbè, da un po' di tempo. L'abbiamo già annunciato. È già stato annunciato. Da Mo. E Mageia è una buona... Praticamente tutti gli sviluppatori di Mandriva sono lì adesso. Sono scappati. Hanno detto ciao, saluti e tante care cose. E comunque, agganciandoci al problema delle distro brutte, brutte c'è anche brutte. Il problema dei nomi di versione brutti. E a questo proposito, da pochi giorni è stata rilasciata Fedora 17, il cui nome di versione è... Mutande pazze. Quasi. Però poteva anche. Sì. Pare che sia per la prossima. Carpa di lago? No, quelle sono le Ubuntu che c'hanno quei nomi. Questa qui è il miracolo carnoso. Sì, allora il logo, diciamo, è che un hot dog. Con la faccia. Però. È una cosa tipo Beefy Miracle. Sì, sì. Okay. E il problema è che non hanno potuto utilizzarlo come tema di default. Perché metti tu le icone a forma di hot dog? No, perché in alcuni paesi dicono che la carne di maiale non è ben accetta. Però allora, Beefy. Beef in teoria è mucca. Però l'hot dog. 5 mucca. Lo dog, c'è dentro era di tutto. Hot dog di pollo. Lo dog di manzo è dura. Cioè, le fanno di manzo, no? Era di pollo. Era di pollo, ma era scuro. Tacchino. Vabbè, comunque è uscita. È uscita, veramente è uscita. Tornissimo. Charlie! Devo dire la verità, l'abbiamo provata, Attenzione, no, è un momento importante. Stavolta l'abbiamo provata. L'abbiamo provata veramente. Non come le altre volte. L'abbiamo provata, bellissima. Esatto. Per cui, per quanto tempo l'hai provata? Saranno stati... Allora, il computer è stato acceso con la live almeno un'intera giornata. Aspetta. Stress test. Ma quanto l'hai usato? Vabbè, diciamo che l'abbiamo provata. Allora, l'abbiamo provata intensamente rispetto al solito, cioè tantissimo. Cioè tipo 10 minuti. Beh, rispetto al solito niente, sì, è vero. No, il solito 2 è anche metto la live, butta, Sì, il desktop mi piace, bella, com'è? Oh, bella, stabile, stabile. Guarda, l'ho provata per un bel po'. Parte, esatto. Allora, no, dici le tue esperienze. Allora, l'ho provata, purtroppo ho scaricato la versione quella di default, che adesso di default ti fanno scaricare la 64 bit. È una cosa sensata, perché chi ha il 32 bit è inutile. Cerca le distribuzioni vecchie. È inutile che cerchi una distribuzione nuova, ok? E di default esce con GNOME, GNOME 3, sì, con GNOME Shell. Sì. Per carità, a qualcuno piace. Non diciamo nomi. Non diciamo piace. Nomi a chi? A me no. A me piace. Beh, cacchio. A Carlo piace. A Carlo piace e si vede. Capita dopo. A parte che era a Marco, a Carlo piace, sì, però vabbè, fa niente. A Carlo piace e si vede. E si vede, vai avanti. Ma ancora? No, vai avanti con la recensione. Ah, oh, giusto, giusto. Comunque, programmi nuovissimi. Le ultime versioni di tutto il mondo. Ma mi sembra che sia dentro anche l'ultima di GIMP. Sì, il già è un... il 2, la 2.8. Che non è male. C'è anche, ancora questa storia, non è male GIMP 2.8. L'hai provato? Allora, no, e mi allora, rifiuto sì, finché non mi rismontano l'interfaccia grafica. No, io l'ho provato. Alchmic. In modalità anche... provvisoria. A singola finestra. Ma Alchmic. Il Sbrug? No, il... no, non ancora. Non c'è ancora Alchmic. Per il 3, per il 3, quello. Con calma, vai avanti. E anche Blender 2.6 e sti par di ciufoli. Quello torna sempre utile. LibreOffice la 3.5.03. L'ho scritto te. Io. È vero. L'hai scritto tu. Una volta che abbiamo la roba, una volta che abbiamo le cose scritte. Ma la cosa, l'inventa. La cosa ganza è QEMU. QEMU. QEMU. Alla versione 1.0. QEMU. E vabbè, si può virtualizzare in una maniera fighissima. Perché? Cioè, che differenza hai usando QEMU rispetto, che so, a VirtualBox? La VirtualBox, beh, QEMU è talmente a basso livello che fa spacca il culo ai passeri. Ti presento un passero. QEMU è fico. QEMU è fico. Questo è... Aspetta, ma voglio capire la differenza. Forse è meglio, perché... se faccio preparare una puntata apposta su questo argomento. Mi piacerebbe, perché QEMU, la cosa bella di QEMU è che sfrutta proprio tutto il kernel e fa partire i suoi bei processi all'avvio, che è un piacere proprio. Ma QEMU non è un... sto per dire la stronzata. Vai, vai. Non è che è un emulatore, l'altro è una virtualizzazione. No, QEMU è comunque un virtuale. È comunque il programma emula anche altri processori. Sì, quello è vero. Sì. Attenzione, questo è vero. Attenzione, attenzione, so che può emulare anche architetture sì, diverse allora, da quella che stai usando. Io propongo questo. Roba del genere. Attenzione, io propongo questo, visto che ne sappiamo tante del argomento. Inizia che se ne sappiamo tante. Sto pensando, c'è una distribuzione con Live che possiamo far girare con la virtualizzazione? No, c'è una distribuzione, c'era una che si chiamava... No, quella che praticamente faceva andare ogni programma, sì, era una virtual machine a sé stante. Dobbiamo trovarla, perché per così almeno possiamo fare le prove, cioè, sì, di virtualizzazione. Era fichissima, doveva avere un, mi sembra un po' 32 eccessivo. Core con 12 a me sembra eccessivo. Comunque, ma se lo fai con QEMU. No, diciamo che QEMU la cosa bella è che è molto più prestante rispetto a tutto il resto che c'è in giro. Va bene, è da provare. È da provare, ma cosa? Attenzione, cosa ti presta? Ma attenzione, però soldi no, perché li ha finiti, sono passato prima. Il tuo processore ha 8 core. Sì, no, ma hai c'ha il bulldozer lui. Esatto. C'ha le operazioni apposta, sì, per sì, no, okay, perché se no non puoi farlo. Okay, va bene. D'accordo. Quindi devi avere un siamo d'accordo. Processore. Siamo d'accordo. Ma non ha niente a che fare con KVM. Sì. Ok. Stiamo sparando parole a caso, parole, non ne sappiamo in libertà, assolutamente niente. Ah, QEMU... ma è quello che usa il Pringle. Sì, il tubo. Il vai Pringle. Avanti. Poi un'altra cosa, però, ragazzi, mi raccomando, se dovete fare l'aggiornamento, state attenti. Charlie! Perché ci sono dei pacchetti che potrebbero scazzare. Cioè, no, scazzare. Termine tecnico. Scazzare. Chiedo scusa al pubblico. E vi dico, Postgre SQL, che è proprio un pacchettino del cacchio. Sì. L'elefantino. Ci sono dei problemi su dei tipi di campi che da una versione all'altra non si ritrova più. Ah, ottimo. Per cui state attenti. Geniale. E poi SQL Lite. Cioè, se aggiornate, state attenti ai database. Praticamente i database sono rotti. Sì. E anche dove mette i piedi. mi scappava proprio. Dove mette la documentazione? Perché quello era, spostato... quello era il rumore della documentazione. Sì. Bello. Gli hanno spostato il posto della documentazione, ma anche chi se ne, nel senso, non è quello che cambia. No, nessuno l'ha avuto. Però provatela con Gnome e poi finirete su KDE. Ma perché io mi trovo bene con Gnome? Quello perché. Se non usi il microfono, non ti sentiamo. A casa, una domanda al pubblico a casa. Okay. Chi siete voi due? Tu, pubblico a casa. Ah, siamo noi. Sì. E sì. Non siamo qui con il microfono. Cinnamon, quello bellissimo che monta il nostro amichevole Linux alla menta. È disponibile solo per Mint, vero? No, è disponibile su diverse altre distribuzioni. Davvero? Sì, su Arc c'è. Allora. Arc piace. Arc piace. Arc e si vede. Piace e si vede. Va bene. Comunque, a questo punto, ragazzi, se volete un CD, l'ho dovuto masterizzare su un DVD. È la ISO del CD. Però funziona. Se lo volete, fatecelo sapere e ve lo spediamo. Perché non sappiamo più cosa farcene. Cioè, è questo il problema di provare le distribuzioni. Ma allora, la domanda, perché l'hai pastorizzata? Io farei. Ma no. Perché ho provato con un NetBoutini. Ma i computer. Non potevi, infatti, virtualizzare il CD. Già che stavi usando. No, perché non l'ho fatto sul computer quello bello. Perché il computer quello bello mi manca un disco. Ah. E non lo faccio partire senza RAID. Ho capito. Ma a questo punto io proporrei un qualche tipo di ragazzi, io devo dire una cosa però. No, aspetta, un qualche tipo di quiz, qualcosa con in palio il CD che Tullio qui presente in studio. CD DVD che Tullio qua in studio ha masterizzato apposta per provare la Fedora 17. Fedora 17 sopra. E ci sono le sue impronte digitali che possono sempre tornare utili nel caso volete trasferirsi. Allora, ho il quiz. Hai il quiz. Vai col quiz. Il quiz era Quizera. Sarà bello, potremmo fare una distro. Quizera. Come la fonera. Vabbè, niente. Che cosa fai? Arriviamo al uovo. La prima canzone che avete sentito. Tanto c'è sul sito poi lì. Lo diciamo dopo, almeno lo lasciamo lì un attimo, fino a settimana prossima. Non leggete il sito, prima ascoltatela. La canzone che c'era all'inizio di questo Opencast. Da che gioco è tratta? Ok, prende ispirazione. Da che gioco? Esatto, mi piace. Ma avete sentito la nostra amica? A Marco piace. Ah, abbiamo una nuova amica che ci fa dello speakeraggio. Dei jingolini. Pensa che ce lo fa apposta da Los Angeles. Sì, sì, è al telefono. Adesso gli chiediamo di dire qualcosa. Ma che si chiama? Igor. Samantha. Charlie. Non Igor. Charlie. Charlie. Charlie. Allora, Charlie, vuoi dirci qualcosa? Com'è lì in California? No, per sapere. Inferno. È un inferno. In California è un inferno. Ma capisco. Vuoi dire qualcosa a chi ci ascolta qui in Italia? Insomma, che so, magari qualcuno può dire qualcosa. Godi Fiorenza, capisco. Godi a Fiorenza. Los Angeles c'è un bel clima comunque. Ho capito, comunque. C'è un bel clima. Va bene, allora grazie a Charlie, la nostra speaker che ci ha letto in apertura. Ciao Charlie. Piace. A Charlie piace. A questo punto abbiamo raggiunto la metà di questo. Io vorrei dire una cosa. Sì. Della musica di stasera, io mi dissocio proprio di qualunque cosa. Se non si fosse capito, è la serata 8-bittosa. Non si è capito perché la prima pezza che abbiamo messo non era assolutamente 8-bit, ma da questo momento in poi. No, puri dai. 8-bit con uno special guest. Ma volevo far notare che abbiamo già fatto una puntata quasi tutta 8-bit. Quasi. È stata una puntata in cui noi non eravamo in onda. Ah, è vero. È vero, era stato preso il controllo dalla intelligenza artificiale che controlla il nostro frullatore. Ecco cos'era. Esatto, che ha preso il controllo e aveva fatto una... Non so se qualcuno volesse andare a cercare il frullatore www.frullatore.gl-como.it. Ma frullatore, che ricordiamo a tutti. Momento topic. Esatto. Perché il momento topic? Perché? Signor presidente, perché sul frullatore è uscita una nuova sezione, la sezione forum. Amelo. Registratevi e postate. Thank you. Sega. Inferno. Allora, ve la siete cercata, eh? Godi, Fiorenza. Siamo tornati. La canzone è durata meno del previsto. Molto meno. Niente. Ma perché ci sono state delle intromissioni così a caso? Ah, per quello. Sì, sì, sì. Quelle costano. Cosa vuoi dire? Costano del tempo. Ecco. E perché non è facile. No, no, non è facile. Non è facile. Altre notizie, dai, dai. Altre notizie, sono siamo tornati. Open Cast Alpha numero 25. E vi ricordo che 25. Su www.gl-como.it tutte le puntate in podcast, sia in MP3 che in OGG, e c'è anche il tastino direttamente per inserire il feed dentro in Miro. Io direi usate l'OGG che merita. Mica cazzi, cioè vorrei aggiungere. L'hai fatto te, vero? Cosa? Il link feed, per... chiaro. Una cosa fai, capito? Una. E poi mette il mixer in mezzo. In mezzo, perché, tutti perché belli in mezzo. I livelli sono in mezzo perché così no, stanno... Tutto a zero. Tutto a zero, tutto carino zero, così. Zero, zero, la zero, configurazione zero, dei newbie. Esatto. Però questo l'ho tenuto un po' più basso perché sennò... Sì, solo per far vedere che hai... Me lo distorce. Spostato qualcosa. Dai, esatto. Che io ho voglia di dire notizie su vai, notizie. Vai, dici vai, notizie. Dici notizie. Dai, AMD. Chi AMD. È che conosce AMD? AMD, AMD. AMD? AMD? Antimateria... Dominum donna, però vabbè. Domina. Antimateria domina. Siamo spacciati. Comunque l'antimateria domina ha deciso che i driver per Linux hanno bisogno di lavoro. No, sì. Quelli dell'AMD. Sì. Ma va. Se ne sono accorti, eh. Come mai? Perché allora loro dicono questa cosa. Forse perché su tutti i forum consigliano tutti di installare Nvidia perché quelli di AMD sì. Fanno cagare. No, vabbè, loro dicono questa cosa. Non è facile scrivere. Non è facile. Però se la sono cercata. Sì, eh. Non è facile scrivere i driver per Linux. Perché? Perché ci sono tante distribuzioni, tante versioni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. E il mondo fatto un sondaggio, Davide. Hanno fatto un sondaggio e hanno visto i topic più famosi per l'aiuto degli utenti che usavano AMD su Linux. E solitamente era: ciao, io AMD ho una scheda AMD API, ovviamente, no? Sì. Come faccio a configurare i driver? La risposta più gettonata era LOL. No, LOL proprio. Oppure vendila. Oppure good luck with that. Comunque, oramai tutti si sono spostati verso Nvidia. Non per altro. I driver ci sono, proprietari, sì, ma funziona. Però basta. Sai perché AMD ha deciso di sistemare la situazione? Perché? Aveva Nvidia. Smetti, stupido. No, ma non lo sapeva lei, ha dovuto usare la sua Intel. Allora... Va bene, andiamo pure avanti. Benone. Comunque benone, si sono lamentati benone. Dicendo che di Linux ci sono troppe versioni, troppe varianti, mentre Windows vabbè. Comunque dopo questa scusa veramente farò veramente veramente fatica a comprare un'altra scheda ATI. Ma basterebbe che rilasciassero un attimino le specifiche, magari. Per esempio, ti piacerebbe abbastanza. Ti piacesse, cioè, un po' tutto, come diceva. Adesso come adesso no, perché non ho più neanche una scheda. Nati in giro per cui... però sono cose che ti segnano. Mi sì, dentro. Comunque, se avete un ATI, non vi preoccupate, stanno già lavorando ai driver, come direbbe, ai driver per amica. Windows 8. Siamo a cavallo. Sapete vabbè. Che a proposito, oggi hanno definito Windows 8 come il nuovo Windows ME? E beh, un no! Articolo l'hanno definito come lo il nuovo Windows ME. Mamma mia. perché c'era anche questo trend, no, c'era anche questo trend. Ma c'è sempre così. Notare sì, che una versione di Windows era buona e l'altra una... versione faceva schifo. E anche quella dopo, che era proprio... No, poi dopo una era buona, una Una era buona schifo. Dopo un una po'. Una buona, una schifo. E infatti da 95 schifo, 98 schifo. Vabbè, dai, sì, beh, però per i tempi era buono. Poi c'era M. Poi c'è stato Millennium Edition ME. Schifo. Il bug il bug tormenta intorno. XP. No, 2000 prima. No, ma no, stiamo parlando del branch NT, del branch poveri uomini che non la parte non workman. Non la parte seria. No. Ah, non perché so, io viene dalle 24. Attenzione. Ah. Windows 2000 arriva dall'altra. Però era bello Windows 2000. Funzionava sì, benissimo. Ma però comunque era l'XP. Va bene. Tutto sommato. Vabbè, XP. XP. Il service pack. Dopo XP cosa c'è stato? Cosa c'è stato? Camera con vista. E sappiamo tutti com'è andata. E c'è stato Seven che... Seven. Vabbè. Sì, per carità, pesante, ci mette 2 ore a buttare, però... Ho visto di peggio. Io faccio ho visto di peggio. Faccio e adesso, ovviamente, Windows 8... Windows 8, secondo me, sarà divertente. Sarà molto divertente. Va bene. Bene. E a proposito di prossime uscite? Prossime uscite. Prossime uscite, LibreOffice. Anzi, prossime, già uscite a questo punto. È uscito ieri o... È disponibile. È scaricabile. Cioè io ho appena aggiornato quella prima, mi tocca scaricarla di nuovo. Non si mangia, ma si scarica, si installa e si gode. E la cosa bella è che... Godi tu, godono loro e gode anche Fiorenza. Fiorenza. Hanno sistemato un piccolo problemino che c'era con utilizzami LibreOffice insieme a OpenOffice. Per cui adesso coesistono. Coesistono. Utilità zero. Vabbè, ma no, ma poi quando dovremo provare la prossima versione di OpenOffice, quando finalmente tutti. Quando finalmente IBM rilascerà il codice che vuole rilasciare di Lotus, che cazzo si chiama? Symfony. Con la barra laterale. Perché c'è la barra laterale. L'hanno presa da Unity? No. ho paura che l'abbiamo presa dall'Office. Mamma mia. Hai capito. E per cui niente, potremmo installarla. Effettivamente. Ragazzi, installatela perché così almeno vediamo se c'è qualche bug. E poi e diamo una mano alla comunità. Soprattutto puoi lanciare le macro. Ah, cacchio! Hanno risolto dei bug che erano un casino. Vita. No, beh, senza di questo non, cioè, si poteva lavorare. Io infatti usavo Gedit perché non riuscivo. Questo bug mi dava proprio dei problemi. Le macro scritte in giapponese non andavano. Strano. Io di solito era un problema. No, allora, io di solito le macro le ho scritte sempre nel linguaggio di programmazione delle macro. Che è il giapponese. Cioè, probabilmente a scrivere in giapponese effettivamente non funziona. Non è facile. Probabilmente neanche in italiano funzionano. Ma no, ma in realtà non funzionano le macro scritte probabilmente con Office in giapponese. Però quelle in inglese già mi vedo, già mi vedo i giapponesi disperati. A tutti usare quello in inglese. Infatti. No, non usavano più le macro. Infatti, in Giappone non ci sono più macro da tot anni. Esatto, neanche su Office. Perché? Neanche su Office, perché. Non si sa mai. Non si sa mai. E poi un altro bughissimo proprio che sono riusciti finalmente a risolvere. Di base, quando si collegava ai database esistenti, che usavano Java pesantemente. C'era uno sfarfallio. No, cresceva tutto. Sfarfallio pesante. Cresce. Va bene, e quindi bene. Scaricate, installate, scaricatelo, divertitevi, fate conoscere, fatelo. Fate usare, andate e moltiplicatevi. Se volete, Dio ai fattori. Se volete un DVD di Fedora 14, fatevi sentire. Direi che con questo siamo giunti a un momento importante di Opencast. Finalmente. Quello che ci porta verso la fine, fondamentalmente. Oh. Ed è per questo che noi siamo contenti. No, voglio dire, non è vero. Anche voi siete contenti. Signori, stiamo per presentarvi anche in questa puntata il famigerato angolo di DistroWatch. Buonasera, benvenuti all'angolo di DistroWatch. Stasera abbiamo tantissime distribuzioni da elencare, quindi faremo un riassunto abbastanza rapido e indolore per facilitare la comprensione un po' a tutti. Iniziamo subito, è uscita Mind 13, le due versioni che adesso vanno per maggiore sono la versione con Mate e la versione con Cinnamon, che ricordiamo a tutti che è nata con... giusto? Sì. C'è anche cinnamon.linuxmind.quello che è. Quella roba lì. Quella roba lì. Detto questo, è uscita di distribuzioni, diciamo, importanti. Snow Linux, basata sul branch stable di Debian, fatta per hardware un po' datato così, però è sul branch stable, carino, molto carino, molto carino. Debian. Poi è uscita un'altra distribuzione che è uscita, praticamente è Bridge Linux 2012.5 ed è una distro pensata per il desktop basata su niente poco che Arch Linux. Cioè, sti cacchi. Beh, sì, molto seria. Ma che si chiama, scusa? Si chiama Bridge. Ah, ne ho sentito parlare. Bridge. Sì. Ne hai sentito parlare, davvero? Sì. C'è anche un logo molto figo. Com'è? Sul gruppo di Arch Linux su Fendica. Beh, può essere, quindi. E com'è il logo? Il logo praticamente è un tasto power con intorno delle... sembra messo in mezzo delle una stellina ninja, sì, qualcosa è bellissimo, di simile, è bellissimo molto... descrivere le cose video su, sì, un OpenCast. È molto bello, molto bello. Alle poi tettine. È uscita così, per tutti i fanatici, so che era la distribuzione che stavamo aspettando tutti, ed è uscita, potrei sbagliare un po' la pronuncia, Kaixa Magica. Che è Kaixa Magica 18, questa distribuzione portoghese che è basata su Ubuntu. Allora ascolta, cioè, scusa, per esperienza ti dico che hai sbagliato la pronuncia. Però probabile. 18, quindi cioè, hanno superato Ubuntu. Hanno superato Ubuntu e non è facile. Le mie limitate conoscenze mi portano a pensare che volesse significare cassa magica. Cassa magica. Infatti è un box. Vai avanti. C'è un cubo come disegno. Fedora, di cui abbiamo già parlato, Beefy Miracle. È uscita GRML, questa distribuzione molto molto molto molto molto leggera, pensata per i sysadmin e le persone che stanno, come dicono, le persone che usano i text tools. Okay, non ditelo, però l'avete tipo, pensato tutti. Tipo convertimelo con me e inviamelo e cose di quel genere. È uscita la nuovissima Knoppix 701, Knoppix 701. Oh, era una vita che non ne sentivo parlare. È una vita che non se ne sentiva parlare ed è uscita finalmente. Federicamelo. È stata aggiornata, sono state aggiornate rispettivamente Clonezilla e Parted Magic. Oh, che sono sempre scaricare. Tutte e due sono. Spaccano. Salvano la vita in più di un'occasione. Devo giusto allargare la partizione USR della mia installazione perché non c'ho più spazio. E l'ultima, ma non in ordine di importanza, è uscita la versione 2.0, in development ancora, però vabbè. Insomma, funziona molto bene, di Body Linux, che ricordiamo a tutti essere una distribuzione Ubuntu based con Enlightenment. Okay. Il nostro è quella distro che preferito. È anche studiata per girare sui tablet. Sì, su interfaccia. Studiata per girare sui tablet portatili. Ogni macchina possibile ha un'interfaccia ottimizzata. Mi sembra bello. Altro? No, niente, questo è tutto, quindi ringraziamo i nostri amici ascoltatori, soprattutto chi ha composto la base. E questo era l'angolo di DistroWatch. Va bene. Salutiamo il gago. È stato molto bello. Il suo amico che ci ha passato da questo, cioè che ha creato un momento base. Di follia, penso. Il gago. E questa base che abbiamo usato molto anche come sigletta mi è piaciuta, sinceramente mi è piaciuta, ma non l'ho sentita, però ci credo, fidati, dopo ti faccio sentire la registrazione. Registramelo e un giorno o l'altro metteremo 16 cuffie così tutti sentono tutti. Non ho capito io perché no, mai perché non ce le abbiamo, le cuffie non ci sono. Tu ce l'hai l'attacco per 16 cuffie? Mamma mia, investimelo. Il cane? No, allora va bene. E su queste simpatiche note direi battute. Su queste ultime simpatiche battute. Battute. Direi che possiamo concludere questa. No, mi sono dimenticato una cosa. Dobbiamo fare i saluti. Un'altra. Prima. Dannazione. Prima. Quasi. Prima. Su Fedora 17, indovinate che cosa è apparso? Un logo. Un programma che noi solitamente utilizziamo. Giusto, giusto. Deve essere che la, diciamo, ci ha sentito. La notorietà di OpenCast Alpha ha spinto. I fedoriani maintainer della distro a inserire nella distribuzione anche questo fantastico programma che consigliamo a tutti quelli che vogliono fare una trasmissione anche live sul web, tipo questo fantastico podcast. Il programma è... Non riusciranno mai a farlo come lo facciamo noi, però. Assolutamente no, perché il nostro è il migliore. Il nostro è preparato mesi e mesi. Esatto, la tecnologia non è tutto, ci vuole anche preparazione e competenza e professionalità. E non è facile. E non è facile perché non vengono mai quando li invitiamo, tra l'altro. Comunque, il programma in questione è... La competenza ne sa. Internet DJ Console, i DJC, che i nostri... I nostri aficionados conoscono perché è molto sempre bene. Linkata nei nostri cuori. Ma soprattutto nel nostro oramai sito. Noi abbiamo la distribuzione di riferimento a cui siamo affezionatissimi. Sì. La ricordiamo ancora una volta. Già che ci siamo, Tango Studio. È l'unica distribuzione che resiste live ai nostri pastrugnamenti. Esattamente. E devo dire che ne sono molto contento. Sì. Ed è molto Se bello. Volete smanettare un po' con l'audio su Linux, io ve la consiglio. Ce la consiglio spassionatamente. Già che ci siamo, che dobbiamo salutare? Allora, a questo punto, chiudendo Opencast, lo chiudiamo? No. Sì, perché ormai abbiamo raggiunto. Lo chiudiamo. Aspetta un attimo. Non funziona. E c'è il rallenti. Devi farlo con quello lì. Ok, ha chiuso Opencast. Mentre lo chiudeva, non so se avete sentito nel rumore della chiusura. Chiudendomelo. Erano compresi i saluti. Allora, è successa una cosa incredibile. Veramente. Per la per la prima volta. Basta. Ma la prima. Per la prima volta, giuro, da quando Opencast è disponibile sull'interweb. Sull'internet. Internet.interweb. Sì. Abbiamo ricevuto una vera email da un vero ascoltatore. Vera. Sì, questa è un'email vera perché le altre mail. Erano diversamente vere. Erano anche diversamente veri gli ascoltatori. Vabbè. A questo punto direi che salutiamo Conan da Frascati, che ci ascolta sicuramente anche questa volta. Ciao Conan. E mo so cazzi tuoi. perché tutte le volte resterai per sempre resterai nei nostri cuori. Punto. Mi sa che un giorno o l'altro facciamo partecipare in diretta. Sì, perché alla fine perché ci ha fatto... Noi abbiamo un ascoltatore diventa automaticamente... Ci ha fatto una domanda che... Grande. Giusto. Ne vale la pena. Vero. Ci ha senso... fatto diverse richieste, diverse domande. Diversissime richieste. Allora, uno, il nostro codice IBAN per fare dei versamenti. Che noi prontamente abbiamo girato e abbiamo già raggiunto, grazie Conan, il bonifico di 1.000.000. Yeah. E però si è firmato signor Buonaventura, vai avanti. Aspettila! Seconda cosa, ci ha chiesto... Se conosciamo altri podcast tecnologici. Podcast liberi e tecnologicamente avanzati come il nostro. Beh. Podcast che parlano di Linux. Allora, noi qualcuno, qualcosa, sì. Vagamente. Se voi ascoltatori, oltre a Conan ovviamente, sa qualcosa di questi podcast, può sempre lasciarci dei commenti alla nostra puntata sul sito www.gl-com. Esiste un forum da poco gl-com.it. Poi dopo gli ascoltatori fanno fatica. Hai ragione. Vanno a vedere quello in giapponese. Perché non è facile. Perché non è facile. E abbiamo un forum da poco aperto dove su cui potete, oggi da poco aperto su cui potrete anche condividere una volta registrati le nostre cose più che altro. O se no potete usare il semplice form di contatto come Conan ha fatto per appunto segnalarci dei podcast che volete portare all'attenzione del pubblico. Altre e su cose? Questa io chiuderei. Chiudilo. Ciao ciao a tutti. Vuoi dire qualcosa in... No. Ciao mamma. Mamma. È una cosa strana. È partita una cosa strana. Cos'è partita? Ma una musica che non era quella giusta. Ma cribio. Vabbè. Cioè, hai due musiche, devi fare on off. E ho schiacciato il tasto sbagliato, che cazzo vuoi? Volevo fare così. Godi Fiorenza. sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Open Cast Alpha. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle.